Capitolo 8. La prima visita della signorina Cornelia Bryant. Quel settembre fu un mese di nebbie dorate e foschie violette per la baia di Four Winds, un mese di giornate baciate dal sole e di notti inondate di luce lunare o frementi di stelle. Non vennero a guastarlo né tempeste né venti impetuosi. Anna e Gilbert sistemarono il loro nido, scorrazzarono sul litorale, andarono in barca nella baia, girarono in lungo e in largo Four Winds, Glen e i sentieri ricchi di felci che si snodavano tra i boschi del promontorio. In breve, trascorsero una luna di miele invidiabile. Se dovessi morire ora, sarebbe comunque valsa la pena di vivere, non fosse altro che per queste ultime 4 settimane, disse Anna. Credo che non vivremo mai più 4 settimane tanto perfette, però le abbiamo vissute. Ogni cosa, tempo, gente, casa dei sogni, ha contribuito a rendere meravigliosa la nostra luna di miele. Non c'è nemmeno stato un giorno di pioggia da quando siamo venuti qui. E non abbiamo ancora bisticciato, la provocò Gilbert. Beh, i piaceri maggiori si suole procrastinarli, citò Anna. Sono contenta che abbiamo deciso di passare qui la luna di miele. I nostri ricordi saranno sempre legati alla casa dei nostri sogni e non sparpagliati in posti lontani. La nuova casa risentiva di una romantica atmosfera d'avventura che Anna non aveva mai trovato ad Avonlea. Anche se laggiù il mare era vicino, non era mai entrato a far parte della sua vita. Four Winds la circondava e richiamava costantemente la sua attenzione. Da ogni finestra della nuova casa ne aveva una visuale diversa. Il suo incessante mormorio le riecheggiava sempre all'orecchio. Ogni giorno le navi entravano nella baia per attraccare al molo di Glen o salpavano al tramonto verso porti lontani di chissà quale parte del globo. Le barche dei pescatori uscivano a vele spiegate al mattino e ritornavano cariche alla sera. Marinai e pescatori, allegri e contenti, percorrevano le strade rosse e serpeggianti della baia. C'era sempre un certo senso di attesa per il futuro. Avventure, nuovi viaggi. La vita a Four Winds era meno preordinata, regolare e prevedibile che ad Avonlea. La investivano i venti del cambiamento. Il mare esercitava un richiamo costante sugli abitanti della costa e anche chi avrebbe potuto ignorarlo sentiva il potere di attrazione dei suoi infiniti misteri. «Ora capisco perché certi uomini non possono fare a meno di andare per mare», disse Anna. «Quella smania che a volte piglia anche noi di far vela oltre l'occaso deve essere imperiosa se ce l'hai nel sangue. Non mi meraviglio che il capitano Jim sia scappato di casa per rispondere a quell'appello. Non c'è volta che io veda una nave uscire dal porto e un gabbiano librarsi sulle dune di sabbia e non desideri di essere a bordo della nave o di avere le ali. Non già per volare in seno alla pace, come una colomba, ma per tuffarmi nel mezzo della tempesta come un gabbiano». «Tu invece, mia cara, resterai qui con me», disse Gilbert pigramente. «Mi oppongo a lasciarti volare lontano nel mezzo di una tempesta». Quel pomeriggio erano seduti sulla soglia di arenaria rossa della loro casetta. La serenità regnava in terra, in cielo e in mare. Gabbiani argentei volteggiavano in alto. L'orizzonte era bordato da pizzi di fragili nuvole rosate. Nell'aria tranquilla si intrecciava il sommesso ritornello dei venti e delle onde canore. Fiori pallidi oscillavano tra la foschia nei prati secchi che si stendevano fino alla baia. Un dottore che ha vegliato tutta la notte una paziente non può provare lo spirito dell'avventura, disse Anna con indulgenza. Se la notte scorsa avessi dormito come si deve, Gilbert, ora saresti disposto quanto me a un volo di fantasia. «Sono contento del lavoro di questa notte, Anna», disse Gilbert in tono pacato. «Con l'aiuto della provvidenza ho salvato una vita, è la prima volta che posso affermarlo. In altri casi ho forse contribuito, ma Anna, se io non fossi rimasto dagli Allonby ieri notte e non avessi combattuto corpo a corpo con la morte, quella donna se ne sarebbe andata prima del mattino». Ho tentato un esperimento che non era mai stato certamente tentato prima a Four Winds. Dubito che sia mai stato tentato fuori delle mura di un ospedale. L'inverno scorso a Kingsport era una novità. Non avrei mai osato tentarlo qui se non fossi stato assolutamente certo che non c'era altra possibilità. Ho rischiato e mi è andata bene. Così, una buona moglie e una buona madre avrà ancora molti anni da vivere felicemente con la famiglia. Questa mattina, mentre tornavo a casa e il sole sorgeva sulla baia, ho ringraziato la provvidenza di aver scelto questo mestiere. Avevo combattuto valorosamente e avevo vinto. Pensa, Anna, avevo sconfitto la grande nemica. È quello che sognavo fin dai tempi dei nostri progetti giovanili. Quel mio sogno si è avverato questa mattina. Solo quello? Chiese Anna, che prevedeva il tenore della risposta, ma non si stancava di sentirla ripetere. Tu sai qual è l'altro tesoro, disse Gilbert con un sorriso. Erano certamente due esseri felici, quelli seduti sulla soglia di una casa bianca sulla spiaggia di Four Winds. Poi Gilbert disse, mutando tono di voce, «Ho le travegole o una specie di bastimento sta venendo su per il viale?» Anna scattò in piedi. «Oh, deve essere la signorina Cornelia Bryant oppure la signora Moore», disse. Io vado nello studio e se è la signorina Cornelia ti avverto che origlierò, disse Gilbert. Da quello che ne ho sentito dire ho tratto la conclusione che conversa in modo tutt'altro che noioso. Potrebbe anche essere la signora Moore. Oh, non credo che la signora Moore abbia quel tipo di fisico. L'ho vista mentre faceva giardinaggio l'altro giorno e, anche se da lontano non la distinguevo bene, mi sembra che fosse piuttosto magra. Non deve essere molto socievole, visto che è la vicina più prossima e non ti ha ancora fatto visita. Ma allora, dopo tutto, non è come la signora Lind, altrimenti la curiosità l'avrebbe spinta a venire, disse Anna. Questa deve essere la signorina Cornelia. E si trattava davvero della signorina Cornelia, ma non era venuta per una breve visita di cortesia. Sotto il braccio aveva un voluminoso pacco con il lavoro di cucito. E quando Anna la invitò ad accomodarsi, si levò l'ampio cappello da sole, trattenuto sul capo a scorno delle irriverenti brezze di settembre, da una robusta fettuccia elastica fissata sotto la stretta crocchia di capelli biondi. La signorina Cornelia disdegnava gli spilloni da cappello. Le fettucce elastiche le aveva usate la madre e poteva bene usarle anche lei. Aveva un viso fresco, tondo, bianco e rosa e allegri occhi castani. Era una figura diversa dalla tradizionale zitella e qualcosa di indefinibile nella sua espressione conquistò immediatamente Anna. Il suo intuito, nel riconoscere le anime gemelle, le diceva che la signorina Cornelia le sarebbe piaciuta, nonostante le stranezze di pensiero che avrebbe rivelate e le stranezze di abbigliamento che già rivelava. Solo la signorina Cornelia poteva recarsi in visita, paludata in un grembiule a righe bianche e azzurre e una cappa a sfondo color cioccolata con una fantasia di enormi rose rosa. E solo la signorina Cornelia poteva apparire austera e dignitosa vestita così. Se la signorina Cornelia fosse entrata in un palazzo per far visita alla sposa di un principe, sarebbe apparsa altrettanto austera e altrettanto padrona della situazione. Con altrettanta indifferenza si sarebbe tirata dietro lo strascico a rose sui pavimenti di marmo e con altrettanta calma si sarebbe accinta a demolire la convinzione della principessa che il possesso di un uomo, principe o contadino che fosse, potesse essere motivo di vanto. Mi sono portata il lavoro, cara signora Blythe, annunciò spiegando un oggetto di stoffa fine. Ho fretta di finirlo perché il tempo stringe. Anna osservò con una certa sorpresa l'indumento bianco poggiato sull'ampio grembo della signorina Cornelia. Era certamente un abitino da neonato, bellissimo, con piccoli volanti e piegoline. La signora Cornelia inforcò gli occhiali e incominciò a ricamare con punti perfetti. È per la signorina Fred Proctor de Glen, dichiarò. L'ottavo bambino è in arrivo a giorni e lei non ha pronto niente di niente. Gli altri sette hanno consumato tutto quello che aveva preparato per il primo e non ha avuto il tempo, la forza o la voglia di preparare altro. Quella donna è una martire, mi creda, signora Blythe. Quando sposò Fred Proctor io già sapevo come sarebbe finita. Era uno di quegli uomini cattivi e affascinanti. Dopo le nozze smise di essere affascinante e continuò a essere cattivo. Beve e trascura la famiglia, tipico degli uomini. Non so come farebbe la signora Proctor a vestire decentemente i figli se non fosse per i vicini. In seguito Anna seppe che l'unica vicina a preoccuparsi per l'abbigliamento dei piccoli Proctor era proprio la signorina Cornelia. Quando ho saputo che era in viaggio quest'ottavo bambino, ho deciso di fargli qualcosa, continuò la signorina Cornelia. Questo è l'ultimo e voglio finirlo entro oggi. Oh, è davvero graziosissimo, disse Anna. Prenderò anch'io il mio lavoro di cucito e intanto chiacchiereremo. Lei cuce molto bene, signorina Bryant. Oh, sì, nessuno cuce meglio di me da queste parti, disse sbrigativamente la signorina Cornelia. E sfido. Mi creda, se avessi avuto 100 figli miei non avrei cucito tanto. È un'assurdità fare dei ricami a mano su un abitino per l'ottavo figlio, ma mio Dio, signora Blythe, lui non ne ha colpa se è l'ottavo e io ci tengo che abbia un abitino bello come se fosse un bambino voluto. Nessuno lo vuole, povero piccino. Perciò gli ho fatto delle cosette un po' ricche. Qualsiasi neonato andrebbe fiero di quell'abitino, disse Anna, sempre più convinta che la signorina Cornelia le sarebbe piaciuta. Avrà pensato che tardavo a farle visita, riprese la signorina Cornelia. Ma è il mese del raccolto, come lei sa, e ho il mio da fare con un mucchio di avventizi che mangiano più di quanto lavorino, come tutti gli uomini. Sarei venuta ieri sera, ma sono dovuta andare al funerale della signora Roderick McAllister. Prima mi pareva di avere troppo mal di testa per potermelo godere, ma aveva 100 anni e mi ero sempre ripromessa che sarei andata al suo funerale. La funzione è stata soddisfacente? Chiese Anna, notando che la porta dello studio era spalancata. Come? Ah, sì, è stato un funerale coi fiocchi. Aveva una parentela molto vasta, c'erano più di 120 carrozze in corteo. Sono anche successe un paio di cose buffe. Mi ha fatto quasi morire dal ridere vedere il vecchio Joe Bradshaw, un miscredente che non varca mai la soglia di una chiesa, che cantava con slancio e fervore: accogli l'oddio tra le tue braccia. Il canto è uno dei suoi vanti ed è per questo che non perde mai un funerale. La povera signora Bradshaw non aveva l'aria di voler cantare, è sfinita da tutto lo sgobbare che fa. Il vecchio Joe ogni tanto parte per farle un regalo e porta a casa qualche macchinario nuovo per la fattoria, tipico degli uomini. E poi cosa ci si può aspettare da un metodista che non va mai in chiesa? Mi ha fatto piacere vederla con suo marito nella chiesa presbiteriana la prima domenica. Il mio dottore non può essere che presbiteriano. Domenica scorsa siamo andati alla chiesa metodista, disse Anna in tono di provocazione. Oh, immagino che il dottor Blythe debba andare ogni tanto alla chiesa metodista, altrimenti non acquisterebbe pazienti. Metodisti. Abbiamo molto apprezzato il sermone, dichiarò Anna con audacia, e a mio vedere l'omelia del pastore metodista è una delle più belle che abbia mai ascoltato. Oh. Beh, senza dubbio sa predicare. Non ho mai sentito nessuno predicare meglio del vecchio Simon Bentley, che era sempre ubriaco, o lì lì per esserlo. Più era ubriaco, meglio predicava. Il pastore metodista è un bell'uomo, disse Anna all'indirizzo della porta dello studio. Sì, è decorativo, ammise la signorina Cornelia. È delicatissimo. E crede di far innamorare le ragazze con una sola occhiata, come se un pastore metodista, zonzo come l'ebreo errante, fosse una gran conquista. Date retta a me, voi non mischiatevi con i metodisti. Il mio motto è: se sei presbiteriano, comportati da presbiteriano. Non crede che anche i metodisti andranno in paradiso? Chiese Anna seria. Non sta a noi decidere, ma a una volontà superiore, disse solennemente la signorina Cornelia. Ma non voglio avere a che fare con loro su questa terra, anche se poi vi sarò costretta in cielo, eh? Questo pastore metodista non è sposato. Quello di prima lo era, e sua moglie era la donna più sciocca e volubile che abbia mai conosciuto. Una volta a lui dissi che avrebbe dovuto aspettare che fosse adulta prima di sposarla. Mi rispose che voleva tirarla su a modo suo, tipico degli uomini. È piuttosto difficile decidere se una persona è adulta o meno, disse Anna ridendo. Verissimo, mia cara. Alcuni nascono già adulti e altri non sono adulti nemmeno a 80 anni, mi creda. La signora Roderick, sì, ancora lei non è mai cresciuta. Era sciocca a 100 anni, come quando ne aveva 10. Forse Forse è per questo che ha vissuto tanto, riflette Anna. Forse. Io preferisco vivere 50 anni da assennata che 100 anni da sciocca. Oh, ma pensi che mondo noioso sarebbe se tutti fossero assennati, obiettò Anna. La signorina Cornelia non si degnò di confutare l'asserzione. La signora Roderick nasceva a Milgrave e i Milgrave non hanno mai avuto molto sale in zucca. Suo nipote, Ebenezer Milgrave, restò pazzo per molti anni. Credeva di essere morto e se la pigliava con la moglie perché non lo seppelliva. Io l'avrei fatto. Anna immaginò la signorina Cornelia truce e decisa con il badile in mano. Ma bravi mariti lei ne conosce, signorina Bryant? Oh sì, tanti. Laggiù, disse la signorina Cornelia, indicando con ampio gesto il piccolo cimitero al di là della baia. Ma vivi in carne ed ossa? Insistette Anna. Oh, ce n'è qualcuno, giusto per dimostrare che la provvidenza tutto può, ammise la signorina Cornelia con riluttanza. Non nego che qualche uomo qui e là, se preso giovane e tirato su come si deve, e se sua madre l'ha sculacciato per bene, può fare una discreta riuscita. Da quel che sento, suo marito non è poi male per essere un uomo. Immagino, disse la signorina Cornelia, squadrando Anna al di sopra degli occhiali, che per lei sia l'unico uomo al mondo. Proprio così, si affrettò ad affermare Anna. Ah, beh, l'ho già sentito dire a un'altra sposa una volta, disse la signorina Cornelia con un sospiro. Quando si sposò, Jenny Dean pensava che il marito fosse unico al mondo. E aveva ragione, ed è una fortuna, mi creda. Le fece fare una vita d'inferno e corteggiava la seconda moglie mentre Jenny era sul letto di morte. Tipico degli uomini. Comunque, spero che la sua fiducia sia meglio riposta, mia cara. Il dottore giovane sta facendosi strada. Non l'avrei mai creduto, perché per la gente di qui non esisteva altro dottore che il vecchio dottor Dave. Il dottor Dave non aveva molto tatto, questo è certo. Parlava sempre di corda in casa dell'impiccato, ma poi il mal di stomaco faceva dimenticare le offese alla gente. Se fosse stato pastore invece che dottore, non l'avrebbero mai perdonato. Il male dello spirito preoccupa la gente meno del male della carne, eh? Dato che siamo tutte e due presbiteriane e non ci sono metodisti in giro, vuol dirmi la sua opinione sincera sul nostro pastore? Già, beh, fu l'esitante esordio di Anna. La signorina Cornelia annuì. Esattamente. Sono d'accordo con lei, mia cara. Abbiamo fatto un errore chiamandolo qui. Ha una faccia che sembra una lapide lunga e stretta da cimitero. Sulla fronte gli andrebbe scritto a imperitura memoria. Non dimenticherò mai la sua prima predica. Come argomento aveva scelto la partecipazione di ognuno al disegno divino secondo le proprie capacità. Era un ottimo argomento, naturalmente, ma che esempi portò? Disse: se aveste una mucca e un melo e se legaste il melo nella stalla e piantaste la mucca nel frutteto a zampe all'aria, quanto latte ricavereste dal melo e quante mele dalla mucca? Mai sentito niente di simile in vita sua, mia cara. Ringraziai il cielo che non vi fossero metodisti in chiesa quel giorno, ce l'avrebbero per sempre rinfacciato. Ma quello che non sopporto è la sua abitudine di dar sempre ragione a tutti. Se gli dicessero: lei è un mascalzone, risponderebbe con un sorriso conciliante. Oh sì, è vero. Un pastore dovrebbe avere più carattere. A dirla in due parole, lo considero un esimio somaro, che resti tra me e lei, naturalmente. Quando ci sono dei metodisti nei paraggi, ne dico un gran bene. Secondo alcuni, la moglie si veste in modo un po' troppo vistoso, poveretta. Dovendo vivere con una faccia simile, ha bisogno di tirarsi un po' sul morale. Mai mi sentirà criticare le donne per l'abbigliamento. È già tanto se i mariti non sono tanto gretti o spilorci da lesinare su questo punto. Non che a me interessino granché i vestiti, le donne si vestono per piacere agli uomini e io non mi abbasserò mai a tanto. Ho avuto una vita tranquilla e agiata, mia cara, e proprio perché non me ne è mai importato niente di quello che pensavano gli uomini. Perché odia tanto gli uomini, signorina Bryant? Dio mio, non li odio, mia cara, non ne vale la pena. Piuttosto li disprezzo. Ma suo marito penso che mi piacerà, se continuerà come ha cominciato. A parte lui, i soli uomini che riesco a tollerare sono il vecchio dottore e il capitano Jim. Oh, il capitano Jim è davvero straordinario, ammise Anna prontamente. Il capitano Jim è un brav'uomo, ma sa anche essere irritante. Non si riesce a farlo imbestialire. Sono 20 anni che ci provo e lui resta sempre placido e tranquillo. È una cosa che mi secca. Ho idea che la donna che avrebbe dovuto sposarlo si sia poi presa un marito capace di montare in collera 2 volte al giorno. Chi era? Oh, non so, mia cara, non ricordo di aver mai visto il capitano Jim fare gli occhi dolci a qualcuna. Io l'ho conosciuto già anzianotto, a 77 anni, sa? Non ho mai saputo perché sia rimasto scapolo, ma una ragione deve esserci, mi creda. Ha navigato fino a 5 anni fa, mettendo il naso in ogni angolo della terra. Finché era viva andava molto d'accordo con Elizabeth Russell, ma né lui né lei pensavano all'amore. Elizabeth non si sposò mai, anche se avrebbe avuto un mucchio di occasioni. Era una vera bellezza da giovane. L'anno che il principe di Galles venne sull'isola, lei era da uno zio funzionario a Charlottetown e fu invitata al grande ballo. Era la più bella di tutte e il principe fece molti balli con lei. Le altre andarono su tutte le furie, perché erano di ceto sociale superiore e il principe non avrebbe dovuto scavalcarle così. Elisabeth andò fiera per tutta la vita di quel ballo. I maligni dicevano che non si era sposata per questo. Non poteva adattarsi a un marito normale, dopo aver ballato con un principe. Ma non era vero. Una volta mi confidò il perché. Aveva un brutto carattere e credeva di non poter vivere in pace con un uomo. Il carattere l'aveva davvero brutto. A volte doveva salire in camera e addentare il bureau per tenersi calma. Ma io gli ho sempre detto che non era un motivo per non sposarsi, se avesse voluto. Non c'è motivo di lasciare agli uomini il monopolio delle sfuriate, non è vero, mia cara signorina Blythe? Oh, anch'io ho il mio carattere, disse Anna con un sospiro. Ed è un bene, mia cara. Così è meno facile che si faccia mettere i piedi addosso, mi creda. Mio Dio, che tripudio autunnale le sue piante! Ha proprio un bel giardino, lei. La povera Elizabeth ci teneva tanto. Oh, lo adoro, disse Anna, e sono contenta che sia pieno di fiori un po' antiquati. A proposito di giardino, avremo bisogno di un uomo per dissodare quel pezzo di terra al di là del boschetto e piantarci le fragole. Quest'inverno Gilbert non troverà certo il tempo, visto il da fare che ha. Conosce qualcuno disposto a venire? Beh. Harry Hammond di Glen fa lavoretti del genere, può darsi che venga. Si interessa di più alla paga che al lavoro, come tutti gli uomini, ed è tanto lento di comprendonio che resta fermo 5 minuti prima di capire che si è fermato. Quando era piccolo, il padre gli buttò addosso un ceppo. Proprio la cosa più adatta da lanciare, vero? Tipico degli uomini. Naturalmente il bambino non si riprese più, ma è l'unico che mi sento di raccomandare. La primavera scorsa mi ha tinteggiato la casa. Ora sta proprio bene, non crede? Anna fu salvata dalla pendola che batté 5 colpi. Oh, com'è tardi! Esclamò la signorina Cornelia. Il tempo passa in fretta quando ci si diverte. Beh, devo avviarmi verso casa. Oh, niente affatto, resterà a prendere il tè con noi? Ribatté Anna vivacemente. Me lo chiede perché pensa di doverlo fare o perché le fa piacere? Chiese la signorina Cornelia. Beh, perché mi fa piacere. Allora, resterò. Lei appartiene alla razza che conosce Giuseppe. So che noi due andremo d'accordo, disse Anna con il sorriso che sapevano riconoscere solo gli adepti. Sì, mia cara, grazie a Dio. Gli amici possiamo sceglierli noi. I parenti li dobbiamo prendere come sono e ringraziare se non sono elementi da forca. Non che io ne abbia molti. Solo secondi cugini, sono una solitaria io, signora Blythe. C'era quasi una nota di rimpianto nel tono della signorina Cornelia. Vorrei che mi chiamasse Anna, esclamò Anna impulsivamente. È più familiare. A Four Winds tutti, tranne mio marito, mi chiamano signora Blythe e io mi sento un'estranea. Sa che lei si chiama quasi come avrei voluto chiamarmi io da bambina. Odiavo Anna e nella fantasia mi chiamavo Cordelia. A me Anna piace. Mia madre si chiamava così. I nomi antichi sono i migliori e i più graditi, secondo me. Se va a preparare il tè, può mandarmi qui suo marito. Da quando sono entrata è rimasto sdraiato su quel sofà a sbellicarsi dalle risa. Oh, come fa a saperlo? Esclamò Anna, troppo stupita dalla dimostrazione di chiaroveggenza della signorina Cornelia per tentare un diniego di cortesia. Ho visto che era seduto accanto a lei mentre venivo su per il viale e so come sono fatti gli uomini. Rispose la signorina Cornelia. Ecco, ho finito l'abitino, mia cara, e l'ottavo bambino può arrivare quando gli pare e piace.